Cos'è, mascotte questo sonno? Hai detto Illumination! Siamo a posto! Comunque... Illumination! Salutiamo, mascotte, salutati! Benvenuti a Dedicato, fai la persona normale! Quindi benvenuti a Babycato. A Babycato, beh sì, è dedicato dei baby, interessante. Babycato. Bene, grazie mascotte, manderei subito un brano, cosa dice? A Babycato, Babycato, hai bambini come te. Moonlight Shadow di Mike Oldfield. Allora, mascotte, non ho capito un attimo oggi cosa sta succedendo qua in studio. Siamo da sole, ma? Mame mimo mu, mame mimo mu. Cosa fai, mascotte e cori? Mangio, mamma. Ma che cosa? Mangio. Ma che cosa strana, mascotte? Ma come mai mangi? Non succede mai. Mangio la di pranzo, la merendina, il cioccolato. Sì. Ma questa ti sembra una cosa normale? No, non lo è, non si mangiano merendine al cioccolato a pranzo, o perlomeno... Si potrebbero mangiare! Diciamo che ognuno mangia quello che vuole, ma alla tua età non è sano mangiare queste schifezze. Si potrebbero mangiare se si fa il brunch. Gangnam Style! Senti, Gangnam Style, cos'è un brunch? Non ho capito. Ah, faccio io! Cosa fai? Ah, mascotte! Allora, la settimana scorsa, visto che tu non c'eri... E qua stai crescendo, a volte sei latitante. Abbiamo mandato i tutorial che avevi registrato l'anno scorso per la nostra trasmissione. Abbiamo fatto la puntata ricordi della mascotte e abbiamo mandato un sacco di tutorial. Chiedevano i nostri ascoltatori, ma in particolar modo io chiedevo, ma hai intenzione di registrarne altri di tutorial? Sì. Ah, quindi riprenderai con i tutorial della mascotte, molto bene. Un po' molto diversi. Un po' molto diversi, beh, un po' molto... mascotte, la smetta di fare dei suoni, dei rumori, qua siamo in studio, è uno studio serio. Sapete perché? Perché io, adesso che sono cresciuta, farò dei tutorial su come si fanno le cose. Ah, perché prima che cos'erano i tuoi tutorial, non ho capito. Sì, in effetti ce n'era uno sull'amore... E dicevi perché amore è amarsarsi e amarsarsi bisogna amarsi, una cosa del genere. Poi ce n'era un altro su l'amicizia e poi ce n'è stato uno molto bello sul cibo, dove ovviamente tu per tutto il tempo consigliavi di mangiare e dicevo: cosa stai facendo adesso, mascotte? Stai mangiando. Siamo perfetti, molto bene. Allora mascotte, dimmi una cosa. Dai, non fare finta di mangiare, per favore, qua sti suoni che fai. Cosa consiglieresti ai nostri... Ma perché fai dei suoni, mascotte? Non fare dei suoni. Allora, cosa consiglieresti ai nostri ascoltatori come brano musicale, come prossimo brano musicale? Vediamo cosa... Never Ending Story. Non è Stormy, non è Never Ending Stormy, è Never Ending Story, storia, storia in inglese, come si dice? Stormy, beh, perfetto, benissimo. Il tuo inglese, mascotte, migliora sempre, vedo negli anni. Sì, vero. È sempre meglio, sì. Ok, Never Ending Story ci piace. Poi che cosa altro consiglieresti? Oh mamma mia, ma crescendo con... No, i Maneskin sono troppo... Quindi Marlena torna a casa. Ma come Marlena torna a casa? Quindi la mascotte torna a casa. Ehi! Torna a casa, mascotte, qua. Ma sono già a casa. No, sei in studio, non sei a casa, questo è molto diverso. Lo studio è a casa mia. Thank you. she may fade away. In your hands, the birth of a new day. Rhymes that keep their secrets, fall behind the clouds. There upon the rainbow is the answer to a never-ending story. Never-ending story. Never-ending story. Never-ending story. Io stanotte sognavo che dormivo. Ah, insomma, la mascotte mi sembri molto creativa oggi. La mascotte sognava di dormire. Dai, mandiamo degli appuntamenti importanti. Miau! Allora, abbiamo delle cose importanti che sono successe. No, allora, non faccia rumori per cortesia. A parte che mi sta accecando. E sta facendo una bomba energetica. E lei, mascotte, la smetta. Mi ascolti? Faccia la persona seria. Sì. È seria? Dica Duca. È seria, mascotte? No, non la serie? Appena ho detto è seria, si è fermata tutta la situazione qua. Serie allora, TV. Nello studio di Dedicato stanno succedendo delle cose importanti. I bambini, i ragazzi crescono musicalmente, attorialmente, state facendo un sacco di cose. Abbiamo in previsione degli spettacoli. Lei, mascotte, sta studiando canto. Agli altri bambini studiano un sacco di strumenti. Sì, adesso, mascotte, mi segua un attimo, mi stia sul pezzo. Allora, sta studiando canto, altri bambini stanno diventando piccoli. No, io sto mangiando. Mascotte, la può smettere per cortesia? Dicevo, sta studiando canto, altri bambini stanno diventando piccoli batteristi, piccoli pianisti. Abbiamo una fucina di idee e di... La fucina del canto! Sì, anche. Quindi le chiedo, visto che per questa volta siamo in studio solo io e lei e il resto dello staff di Dedicato attualmente è assente, chiedevo, ci sono dei consigli che vuoi dare ai piccoli che vogliono cominciare a fare musica, teatro, spettacolo, insomma, dei consigli, degli aiuti per chi ha difficoltà, perché non è un percorso facile da cominciare, anche se ovviamente da bimbi alla vostra età è una cosa un pochettino più di gioco, ecco, io ovviamente. Io non sono una bimba. No, tu non sei una bimba, certo, no, è vero, sei una... quasi ragazza, una preadolescente, molto bene. Ok. Adolescio. Nel tuo adolesciare hai dei consigli per questi piccoli e giovani che vorrebbero... Mascotte, ma scusi, io le sto facendo una domanda, lei sta continuando a mangiare, a bere, non so se si vuole fare anche la doccia nel frattempo. Si potrebbe fare, allora io adesso la intervisto mentre è sotto la doccia, la smetta di fare dei rumori, lei è rumorosa in studio, ecco, sta dando fastidio questo giorno, in questa giornata, voglio dire. Do il consiglio, dovete solo cantare e suonare. Visto dalla luna, luna, Oswald, anima fra mari e mare. Che per quanto la chiami, quanto e quanto dichiari, da dall'alto dell'astro resti un piatto fra spazi astrali. Oswald, Oswald, visto dalla luna, luna, Oswald, anima fra mari e mare. Che per quanto decanti, quanto e quanto ti incanti, da dall'alto dell'astro nome un pazzo fra due giri. Nella notte d'estate, nel silenzio della quiete angusta, note addestrate, ma tacere nel momento giusto a nord delle strade, dove il cielo dona un senso a tutto, noto le statue che ora emergono il crepuscolo, lama di luce, preludio, l'aria che fugge ogni dubbio, nuda il cospetto del tutto, letto del blu penilunio, luna architetto del buio, tetta del cielo Vitruvio, luna che inchioda le nubi, ingoia blu scuro di luglio. Oswald, guarda il lume che splende fra i picchi, Oswald, il barlume che rende più piccolo, ascolto quella luce fra gli spazi zitti, già fusco, col secco gli illuministi. averne un poco dentro. Il letto al chiaro di luna, sotto un vento che la tinge a spiga, un mare di bruma, come dentro il dipinto di Friedrich. Lancio uno sguardo, poi l'addio al suo mito. Fu un oblio fallito, un rito unito all'io finito. Per la vita e calare nel mare come un dio fenicio. Per bagnarsi le piaghe di sale come un dio ferito. L'uomo visto dalla luna. Se solo un piccolo corpo sul suolo, un microbo ignoto e remoto. E quando tu ascendi sui picchi, scega le crisi. Qui resta vita svilito nell'infinito di Schelling e Fichte. Wordsworth, Wordsworth. L'uomo visto dalla luna, luna. Wordsworth, Wordsworth. Anima fra mari e mare. Che per quanto la chiami, quanto e quanto dichiari, da dall'alto dell'astro resti un piatto fra spazi astrali. Wordsworth, Wordsworth. L'uomo visto dalla luna, luna. Wordsworth, Wordsworth. Anima fra mari e mare. Che per quanto te canti, quanto e quanto ti incanti, da dall'alto dell'astro nome un pazzo fra due giganti. Sembri quasi l'occhio di Dio dietro il banco di nubi. Segui i passi che per l'oblio stanno orlando i dirupi. Tu, luna, che guidavi morti dal palmo di Anubi. Metti anche i pavidi a testa in su come un branco di nubi. Sei la madre di tutti questi infanti. Brillante perché rifletti, mai perché ti infiammi. Non fai differenza tra i tuoi protetti infatti. Con il tuo lume orienti poeti e briganti. Zittisci mondo selvaggio, non sono colto né saggio, ma stanotte ho colto il messaggio. Dall'lassù il mio film è piuttosto cortometraggio. So che tu non distingui il mio corpo è tronco del faggio. Ubriaco di te come Pierrot, lacrime livide di Rimmel. Come un verrò, più mi ergo, più la tua iride mi ride. Vacuo carnefice tra insetti e bestie fameliche. Ti do la caccia che vuoi che faccia, t'ho sempre in testa Artemide. Prendo posto in sella ad un ippogrifo. Verso il cosmo, il mio senno è lì sopito. Dentro il bosco, vago come intimorito. Bramando il tuo consenso come in un antico rito. Il tuo profilo chiaro, un ricamo a filo di lago. Ogni conflitto umano un fiato sul filo di grano. Ti maledico e t'amo, lunatico Enrico VIII. Poi ti catturo come Chopin con le mie dita un piano. Wordsworth, Wordsworth. Ho visto dalla luna, luna. Wordsworth, Wordsworth. Anima fra mari e mare. Che per quanto la chiami, quanto e quanto dichiari, da dall'alto dell'astro resti un piatto fra spazi astrali. Wordsworth, Wordsworth. Ho visto dalla luna, luna. Wordsworth, Wordsworth. Anima fra mari e mare. Che per quanto te canti, quanto e quanto ti incanti, da dall'alto dell'astro nome un pazzo fra due giganti. Il suo sguardo magia, calmo, piatto e folle. Ovunque vai, vai, tu uomo vai, vai. Ti guarderai, sarai il suo balia. Il suo sguardo magia, calmo, piatto e folle. Ovunque vai, vai, tu uomo vai, vai. Ti guarderai, sarai il suo balia. Wordsworth, e allora siamo tornati in studio alla grande con Murubutu Caparezza in questo pezzo fantastico, la produzione del Tenente, cattiveria cruda, Reggio Emilia direttamente, quindi amici, compagni di una vita, e questo fantastico brano, veramente grazie, ci ricorda che domani al Teatro Duse a Bologna ci sarà Murubutu con la Jazz Band, quindi grande concerto di Alessio Mariani in arte Murubutu. È veramente per noi, appunto, come dicevo, un amico, ma è un mito. Cioè, poi adesso in questo studio, ultimamente, visto che quest'estate abbiamo fatto un giro per la Sicilia con lui e abbiamo ascoltato e vissuto insieme un suo talk interessantissimo su una tematica anche importante, perché insomma è il coinvolgimento dei giovani nel rap oggi, e quindi non parliamo di trap ma parliamo di rap, e ne parliamo ad alti livelli con Murubutu, che oltretutto è un insegnante al liceo e quindi ha a che fare quotidianamente con adolescenti e ragazzi che si affiancano alla musica e ovviamente pianta dei piccoli semini quotidianamente con i suoi giovani fanciulli a scuola. E in questo talk ci ha raccontato un po' questa commistione tra rap e essere professore, e infatti è il nostro professore del cuore, e domani sarà al Duse con questo fantastico concerto con una jazz band. Noi saremo ovviamente ad ascoltarlo, e quindi grazie Murubutu. Ora, mascotte, abbiamo qualcos'altro da dire? Dimmi se abbiamo qualcosa da dire, ti prego, mascotte. Abbiamo qualcosa da dire? I wanna witch and me, coscendo con di fo, coscendo con di fo, coscendo con di fo. Mascotte, un consiglio, non una canzone. Ho detto prima, le ho chiesto la canzone e, no, e non dice, diceva solo così. Poi adesso le chiedo un consiglio e mi dice la canzone. Mascotte, per cortesia, si impegni. Cosa diciamo ai giovani che cominciano nell'ambiente dello spettacolo? Cosa diciamo? Dovete urlare! No, dovete amarla questa cosa, divertirvi e giocare. Piace. Dovete amarla se vi piace. Se non vi piace la dovete piacere. Se non vi piace la dovete piacere. Se vi piace la dovete piacere. Va bene, mandiamo un brano. Ciao Mascotte! Ciao! Mascotte, che fatica! Sugar pop, sugar pop, rocks and pop. You don't stop till the sweet beat drops. I show and prove as I stick and move. Vivid poems recited on top of the groove. Smooth mind, floating like a butterfly. New set afloat, sung like a lullaby. Brace yourself as the beat hits ya. Dip, trip, flip, fantasia. Zone and bop, funk and fusion, a fly illusion, keeps you coasting on the rhythm you're cruising, up, down, round and round, rhymes profound, but nevertheless you got to get down, fantasy freak through the beat so unique, you move your feet, and sweat from the heat, back to the fact, I'm the Mac and I know that, the way I keep the rhyme, someone call me a poet, form steady flowing, growing, showing sights of sound, caught in the groove, and fantasia I found, many tripped the tour upon the rhymes they soared, to an infinite height, to the realm of the hardcore. Here we go, off I take ya, dip trip, flip fantasia. Boogie jam slam, bust the dialect, I'm the man in command, come float with the sounds of the mighty mic master, rhyming on the mic, I'm bringing suckers to disaster, boo-coo ducks, but I still rock Nike, with the razzle-dazzle, a star I might be, scribble, jabble, scrabble on the microphone, I babble as I fix the funky words into a puzzle, yes, yes, yes, on and on as I flex, get with the flow, birds manifest, feel the vibe from here to Asia, dip trip, flip fantasia, ow, you don't stop, come on, come on, come on, come on, come on, come on, give me more, of that funky horn. What's that? Saluterei i nostri ascoltatori nel suo delirio canoro, può dire ciao, ci risentiamo ciao. La prossima settimana sempre alle 13 e dove su Radio Città Fusico. Ciao a tutti, ciao.